Infatti stiamo cercando di fare un luogo, se non facendo la parola benessere, benessere inteso appunto nel senso capitalistico del termine, ma quello che stiamo cercando di fare è di strutturare questa parola da un certo punto di vista per farla poi diciamo, ridefinire secondo un nostro concetto di benessere, che è appunto un benessere che deve essere per tutti e che deve guardare soprattutto appunto alla tutela dell'ambiente, del territorio, della nostra vita, del nostro quotidiano, le nostre relazioni personali e sociali soprattutto, quindi un benessere sicuramente condiviso e collettivo. Su Dario Vaccino io conosco veramente pochissimo, quindi sono felice appunto di scoprire le cose che ci racconterete, e una cosa soltanto che mi preme di dire è che qui appunto il centro sociale SNIA, ex SNIA, ma anche qui nella Valle del Parco appunto c'è da tanti anni, da 20 anni, una lotta che appunto è proprio una lotta di riappropriazione di questo territorio, di tutto il territorio della fabbrica, ma una lotta anche contro la devastazione del territorio, contro la speculazione che stiamo portando avanti appunto con tanta diciamo, passione e l'insegnamento appunto di Vaccino, leggendolo ora, sono veramente diciamo, un faro da un certo punto di vista, anche perché appunto se negli anni 70 erano pionieri, adesso ci stiamo rendendo conto che quello che diceva appunto si sta realizzando, anzi che il capitalismo si sta ristrutturando in un'altra maniera, ma che comunque poi diciamo il modo in cui agisce sono le stesse cose, quindi l'imbroglio ecologico sta andando avanti, cioè purtroppo è imbrogliato veramente di brutto, e quindi dobbiamo cercare di trovare magari degli strumenti ancora più affinati per resistere, quindi appunto rileggere e riconoscere questa figura di Dario Vaccino è una cosa molto molto importante. Quindi speriamo che questo da qui parte un ragionamento che ci porteremo nei mesi più là, un ragionamento che porteremo nelle lotte contro la speculazione che stiamo facendo qui a Roma Est. Quindi insomma grazie a tutti e a tutti e buon proseguimento. Lascio la parola a Vincenzo. Grazie a Flavia. Quando si è posto il problema di ricordare Dario anche qui a Roma, visto che l'avevamo ricordato direttamente a Luca all'inizio dell'estate, è stata una bellissima esperienza tra memoria, amicizia, futuro, eccetera, ha posto appunto questo desiderio ai compagni e alle compagne della SNIA che l'hanno subito raccolto. Si intendeva farlo direttamente a fine luglio, poi non si è trovato lo spazio adatto, quando poi arriva agosto ovviamente ci sono i compagni e le compagne in fuga, giustamente, a merità di riposo. E quindi si è riproposto nell'ambito di questo festival della cultura che quest'anno è intitolato al benessere, e allora ho detto quanto ci azzecca ancora di più, insomma, no? Quella preveggenza di Dario che all'interno del scontro, del conflitto tra capitale e natura ovviamente aveva indicato quello che è il concetto di armonia, quindi anche di benessere della vita, sia quella degli umani che quello dei vegetali e degli altri, e quindi ben felici di questo. Avevamo pensato di farla di domenica, che c'era, quest'anno c'è una bellissima passeggiata che tende a portare ai romani ovviamente il laghetto che sta qui dietro le nostre spalle, per chi non conosce questa battaglia che è stata vinta, anche se bisogna poi mantenersi sul pezzo e portarla a casa. Cioè portarla a casa significa essere godibile ovviamente da parte della cittadinanza, ancora non lo è, non sono stati stanziati fondi, ma questi compagni e compagne della SNIA ci hanno fatto una battaglia che oggi è di tutta la città in qualche modo, e quindi però ci sono state diverse esigenze per cui abbiamo, e ringrazio Flavia e i compagni e le compagne della SNIA per aver incastrato ovviamente questa ricordo memoria presente e futuro di Dario dentro questa vicenda di Logos, perché ormai neanche tra i romani questo festival, siamo arrivati alla quinta puntata, è abbastanza vissuto, con tutto quello che c'è ovviamente di incastri, di frette. Dopo di noi ci saranno qui in questa sede la realtà della lotta importantissima del popolo e dei combattenti curdi, per cui ci faremo un po' di spazio vicendevole, ma insomma ci è talmente forte la nostra contemperanza e amicizia che ovviamente accetteranno di aver sforato una mezz'ora questa nostra vicenda. Quindi abbiamo un'ora piena per poter affrontare ovviamente questo ricordo, e quindi ci teniamo nei tempi dei 10 minuti a testa per poter ricordare, e alla fine proietteremo un pezzetto di un video di 12 minuti che è un lascito di Dario, ovviamente, eccetera, che ci riguarda, ci saluta, ovviamente, eccetera, ci raccomanda alcune vicende della nostra esistenza. Che dire prima di dare la parola a Sirio e poi, se va bene, a Tano, ad Alfonso, a Massimo, compagno di Luca, poi Giorgio, così che conclude, eccetera. E che dire dunque? Io ho considerato, per quello che mi riguarda, la vicenda di Dario, che per me è stata, come tanti altri di noi, una vicenda lunga anche umanamente. Però quello che riguarda lui è la preveggenza, almeno per me. Oggi tutto quello che sta accadendo, che non accade nell'immediato, ma è stato lungamente preparato, cioè la catastrofe economica, ambientale, umanitaria, è frutto di questa visione, ovviamente, di una visione di un umanista che comprende che senza conflitto non si arriva da nessuna parte e che indica le tappe di questa difficoltà del presente. E quindi si pone il problema del formatore, di colui il quale può distribuire questo sapere assunto dalla sua vicenda personale, dallo stare in mezzo alla società, eccetera, per poter dire alle nuove generazioni: attenzione, questo sta accadendo, prima vi preparate e meglio è da questo punto di vista. E quindi tanti sono stati i tentativi di Dario di tirar su, come dire, gli impianti di formazione più estesi di quello che è stato il raccordo che abbiamo avuto quando presente in vita, eccetera, ma non si è limitato appunto a questa indicazione, a questo lavoro di scrittura fatto attraverso i libri, attraverso i testi, ma ha preso parte anche ai conflitti, e i conflitti in cui lo abbiamo conosciuto in maniera più prepotente sono stati quello del movimento antinucleare, o meglio dire di un ambientalismo radicale non vissuto dentro le aule parlamentari né dentro i consessi amministrativi, piuttosto sul pezzo, sul campo, di cui ha avuto appunto l'epicentro la storia del nucleare civile italiano, delle centrali nucleari, e appunto lì non si è limitato a dare una mano, è intervenuto direttamente, sapeva che era una battaglia di un certo spessore, quasi fondamentale, anche se niente c'è di fondamentale fin quando non costruisci una nuova società, ovviamente liberata da sfruttamento generale. E insieme a questo, pensate, qui c'è il carissimo Tano, con cui è stato costruito uno dei bei libri fotografici, non sarà stato il primo, vero Tano, ovviamente, eccetera, è il 77, ma sicuramente il più bello, appunto, almeno a me appare quello, in cui, a testimonianza di un'insorgenza che c'è stato in questo paese, che tuttora viene ricordato nel bene e nel male, voglio dire, ci sono i detrattori, ma non possono fare a meno di ricordare quello che c'è stato, di pensare: oddio, e se torna, che cosa succede in questo paese così disgraziato? Ebbene, in quella vicenda sicuramente c'è stato enormemente a fianco, sono nati per vari motivi, appunto, proprio perché quello era il periodo adatto, i libri del no, e ne trovate ovviamente su questo banchetto una presa visione, e capite bene lo spessore che c'era in quella desiderata, insomma, recuperata sia attraverso le voci delle soggettività che hanno dato vita appunto a quel movimento, sia attraverso i pensieri, come dire, del futuro, che potevano sicuramente portare ad una contingenza diversa da quella che invece è stata, una grande poi repressione e via di seguito. Insomma, io ho voluto dare questi due flash sulla vicenda di Dario, e voglio concludere che chi pensasse che noi abbiamo utilizzato, e questo lo abbiamo fatto perché ci piace moltissimo ricordare Dario, ovviamente, eccetera, ma a me ha stimolato ovviamente questa storia dei 10 anni che ci è venuto a mancare, perché le indicazioni, la formazione, questo pensiero critico nei confronti della società corrente è talmente attuale che oggi è una diffusione di massa. Pensate, stiamo alla vigilia dell'ennesima convocazione dell'ONU delle crisi ambientali e del cambiamento climatico, come lo chiamano loro, come forma, come dire, eufemistica da questo punto di vista. E nessuno tra costoro si pone da dove viene tutto questo. Si pongono il problema di darci qualche rimedio, io taglio un po' di CO2 da una parte, io levo qualche produzione più nociva, ma intanto poi acquisto certificati verdi, quindi dai popoli che non hanno questa possibilità, e continuo a sfruttare, continuo a far guerre, continuo a creare esodi biblici come quelli in corso. Bene, questo portato credo che apre proprio qui a Logos quello che saranno le iniziative che la parte romana insieme alle parti italiane ci porterà in quel conflitto a Parigi. A Parigi dal 15 al 22 di dicembre si svolgerà l'assise dell'ONU e contemporaneamente ci sarà l'assise mondiale dei contestatori, cioè si porteranno lì a partire dal mondo contadino, Via Campesina per chi la conosce, insomma tutta questa realtà che riguarda milioni e milioni di persone che soffrono la fame, la miseria eccetera, e che lì vorranno indicare la vera alternativa ancora una volta che l'ONU non prenderà per i vari compromessi eccetera. Quindi mi sembra appropriata anche questo avvio di discussione, questa utilità della figura di Dario per arrivare a questo approccio. Passo la parola a Silvia. Comunque il configurarsi del dominio è stata un'altra parte diciamo rilevante della, della sua ricerca. Ma torno appunto alla parte ambientale, che probabilmente è quella che è più conosciuta. Questo aspetto, la preveggenza inascoltata, in qualche modo è qualche cosa che diciamo solo delle piccole parti della società e dei movimenti hanno messo a frutto, e per un buon periodo di tempo parlare di ecologia non era così semplice, soprattutto parlare di ecologia in rapporto all'assetto economico è qualche cosa che era estremamente scomodo per il potere, però in qualche modo sembrava residuale anche diciamo nei dibattiti dentro il movimento, in quello che era il diciamo l'apparente priorità degli elementi, cioè la rivoluzione domani o comunque l'organizzazione, il problema di come assemblare le varie parti del movimento, erano sembravano prioritari rispetto a questo elemento. E c'è stato un momento in cui questi due aspetti si sono saldati, ed è stato quando il periodo del movimento antinucleare, la possibilità di sviluppare fino in fondo da una parte il ragionamento sul chiamiamolo rispetto della natura, sul senso del dominio, sull'uso degli strumenti, sull'intrinseca violenza, sull'intrinseco elemento di dominio che è insito nel nucleare, anche quello definito di pace. In quegli anni c'è stato probabilmente è stato il momento di maggior comprensione vicendevole tra un intellettuale, anche se lui detestava essere chiamato intellettuale, si sa bene quanto ci giocasse o quanto realmente pensasse di non esserlo. Sicuramente rispetto a tutti noi era un intellettuale, e comunque innegabilmente è stata una vita dedicata alla comprensione, allo studio, anche se sempre al servizio di un obiettivo, di una finalità, di un tentativo incessante di socializzare questo. E mentre aspettavo, mi veniva anche in mente che tutto questo patrimonio in qualche modo ha avuto un riconoscimento relativo, ma non ovviamente nel senso degli onori o delle sottolineature sociali, ma proprio ha avuto una rilevanza relativa rispetto all'importanza che ha avuto come elemento di comprensione e di relativa diffusione. Anche oggi siamo qua e sono 10 anni che Dario non c'è più, non moltissime persone ricordano il suo contributo. È detto ovviamente tra di noi che siamo qua per capire, per ricordarlo affettuosamente, quasi tutti l'hanno conosciuto e certamente quindi non è rivolta a noi, ma mi domandavo come mai alcuni elementi così importanti e così innovativi nella comprensione dei meccanismi sociali abbiano avuto una relativa diffusione. Ma in fondo è qualche cosa che Dario aveva messo in conto, il non venire a parti, una forma di coerenza o di testarda irriducibilità, hanno contraddistinto sempre il suo procedere. E ha fatto due libri per Einaudi, poi insomma non si ritrovava dentro la linea editoriale di Einaudi e quindi ha litigato, e poi insomma in qualche modo ha avuto modo di litigare con tantissime figure sociali, con una parte consistente dell'ambientalismo, ed era considerato scomodo, e questa scomodità è andata a discapito di diciamo comunque di un riconoscimento. Ricordo, tanto per così, per raccontare un aneddoto appunto rispetto alla sua scomodità, che quando nacque Repubblica, Dario, purtroppo per necessità, in questo caso per necessità dettata dalle mie vicende, cercava lavoro, una persona, un redattore della futura Repubblica, propose il suo nome per la parte ecologica a Scalfari, e Scalfari disse: no, Faccino, non se ne parla proprio, cioè, non è proprio compatibile con la linea di Repubblica. E questo è stato un po' il senso del suo rapporto con, non solo con il potere, che è stato altra cosa, ma anche con tutte quelle articolazioni intellettuali diciamo di potere, del consenso che in qualche modo con cui lui ha avuto a che fare per il suo mestiere e per il suo impegno. Ma a noi piace ricordarlo così come una persona, al di là che era mio padre, quindi qua non ci sono discorsi ufficiali, perché tutti sappiamo chi siamo più o meno, ma al di là del ricordo personale ci piace ricordarlo con questa sua figura, diciamo, irriducibile, non disposta a venire a patti, non disposta a coltivare un piccolo orticello dove soddisfare insomma anche la propria, il giusto desiderio di riconoscimento e magari anche per lui una piccola vanità. Ci ha lasciato tanto, lì ci sono dei libri, abbiamo portato dei libri semplicemente per far vedere tutta la sua produzione, perché non tutti sono conosciuti. Ci sono alcuni libri che hanno avuto veramente una piccola circolazione, anche se non sono stati di poca importanza. L'unico libro in quantità che, se qualcuno vuole prendere, è questo, oggi si definiscono Instant Book, è un libro sul 77 scritto quasi in contemporanea. È stato il periodo in cui Dario ha avuto il maggior impegno personale e anche, come dire, ha trovato una sponda e un'accoglienza di cui forse aveva bisogno e che in altri periodi della sua vita non ha trovato. Non mi voglio dilungare, scusate, è solo per descrivere alcune piccole tappe, ma lui veniva dal filone socialista senza mai aver avuto la tessera, quel filone socialista che viene da Panzieri e tocca poi in Tronti o appunto in Negri alla fine, senza mai avere questa tessera, vive una vita insomma di indipendenza, di libertà, e l'indipendenza e la libertà spesso si pagano con una non piena adesione, una non piena partecipazione di tutti quelli che sono i riti di passaggio. E nel 77 invece c'è stato un periodo in cui, in questo caso non è cognome, l'autonomia operaia, ma insomma non soltanto questa, una parte del movimento l'ha accolto, l'ha stimolato, e lui si è sentito investito di questo. E questo libro, appunto, sul 77, per chi l'ha aiutato anche a scriverlo, non dico a scriverlo, ma comunque insomma a strutturarlo, ricorda l'entusiasmo con cui ci prese, dicendo: bisogna fare un libro sul 77, bisogna raccontare queste cose. E lo diceva lui a noi, che forse non ne avevamo piena coscienza, o forse avevamo una visione comunque ristretta di quello che era, di quello che era l'orizzonte che si poteva percepire da fuori. E lui dice: presto, dobbiamo cominciare a scrivere. E questo libro è stato appunto fatto quasi in contemporanea, mano a mano che succedevano le cose si scriveva, ed è appunto l'unico che, su cui ci sono degli avanzi, che qua sono stati portati perché qualcuno può essere interessato. E niente, finisco appunto dicendo che ci piace ricordarlo in questo modo, e a me personalmente piace anche ricordare quanto è stato scomodo per il potere, ma in qualche modo anche non facilissimo per noi, perché è stata una persona che ci ha sempre sollecitato, ha spesso richiesto il meglio, e ha richiesto un livello, un'applicazione che qualche volta per distrazione, qualche volta per pigrizia, qualche volta per paura, non sempre siamo riusciti ad assolvere. E però credo che abbia, tutti quelli che hanno avuto a che fare con lui siano stati stimolati da questo atteggiamento. Il libro si chiama Sceni, che sta lì, dico, Sirio ne ha parlato in lungo e largo, però poi non l'ha citato. Prima di dare la parola a Tano, ci è arrivato un saluto di Oreste Scalzone, a cui avevo mandato ovviamente il tutto, insomma, eccetera, e che dice, nelle sue difficoltà, che da molto tempo lo perseguono, se non avessi l'interdetto ai lunghi viaggi fino all'assorbimento totale del gas immesso nell'occhio sinistro da intervento di reincollaggio di retina, verremmo in ricordo di Dario e con la Lia, Sirio e voi altri alla Romana, insomma, eccetera. Domani mattina, significava stamattina, ti mando qualche riga, voi che le conoscete, Riche d'Oreste, no? Che sono 12 pagine, non è arrivato niente, quindi do la parola. Sta scrivendo ancora. Parlare di Dario, perché per me è una figura imprendibile, inscatolabile, perché come Vincenzo ha scritto, per noi un fratello maggiore di movimento, va bene fratello maggiore, ma di movimento che vuol dire? E di movimento vuol dire che siamo tutti su una stessa strada, almeno vuol dire per me, che siamo tutti su una stessa strada, e ognuno però, a differenza che nei partiti, che nei sindacati, ognuno però sente che deve fare un tratto di quella strada, che se non la fa lui, non la fa nessuno. E bisogna dire che Dario ha fatto il suo tratto di strada fino in fondo, fin dal principio, quando noi ancora eravamo appena nati come persone, cioè avevamo un anno, due, tre, due. E Dario ha vissuto fino in fondo questo. E che cosa vuol dire essere fratelli di movimento? Che ognuno fa quello che ritiene meglio e giusto, e che lo comunica agli altri. E Dario è stato fortissimo in questo, ha comunicato agli altri, che noi tutti eravamo anche un po' sordi, anch'io ero un po' sordo, nel senso, cioè non erano i miei termini, i termini a cui ero abituato, avevo degli altri problemi, ma non è che era fuori tempo lui, eravamo fuori tempo noi. E anche quando Sirio ha detto lui è stato accolto dal movimento, posso dire che è stato il contrario, cioè che è stato lui che ci ha accolti, aprendoci anche casa. Io ricordo che delle volte sono andato da lui di sera, cioè lui ha aperto la sua casa, non noi la nostra per lui. E anche bisogna dire il dopo, cioè che il suo pensiero, secondo me, le sue istanze sono vissute così bene sono vissute, hanno preso così piede che, chiamiamolo il potere, chiamiamolo i partiti, il mondo dei partiti, della politica, si è dovuto attrezzare non per distruggerle, ma per portarle dentro di sé, cioè per castrarle un po', è una brutta parola, mi spiace, per castrarle e ricondurle sulla retta via, quella della lotta partitica, della lotta parlamentare, e così ha fatto, tanto che ha costruito organizzazioni apposta per riportarle sulla retta via, per strumentalizzarle. Io parlo di Lega Ambiente, no? Di Lega Ambiente, parlo del Partito Comunista che ha affiliato i Verdi, era il Partito Comunista che dava i soldi per Lega Ambiente, che dava i soldi per il giornale di Lega Ambiente, che è stato diretto, fondato, diretto da quello che è il ministro degli esteri oggi, che come sappiamo non ha delle reali, non sente dei reali valori ambientalistici né con le cose né con le persone. E così anche il partito dei Verdi, anche con persone che non sono di per sé cattive come Alex Langer, ma si sforzavano di riportare tutto su un linguaggio comprensibile per la lotta parlamentare, per la lotta vera o falsa parlamentare. Ecco, come dire, il lascito di Dario è stato potente e forte, cioè queste organizzazioni sono anche morte, i Verdi sono morti, però le sue istanze no, è questa la cosa. Poi Vincenzo ha fatto un riferimento, dice non ricorda il libro, è vero che è un libro strano quello lì che abbiamo fatto insieme, che non ha parole. Ecco, io ricorderei anche questo aspetto libertario di Dario Pacino, libertario, cioè di far fare a ognuno quello che la sua coscienza dettava. Libertà, che questa cosa sembrava un'eresia, un libro che non ha parole, un libro come un film muto in un tempo dove già avevano inventato i film a parlato, a colori, ed era un film in bianco e nero e muto. E bisogna dire che tra quelli, e il più importante è stato lui che hanno avvallato questa cosa, è stato Dario. Cioè bisogna dire che in mezzo a noi, ora si dice sorridendo, cioè, ma c'erano le persone che dicevano: perché tutta questa gente che piange, che visione è del mondo, tutta questa gente che gioca, perché si facevano vedere i sentimenti di queste persone. E Dario avvallò il libro, che cioè diede anche, cioè permise che fosse stampato, che non è poco, perché ci prestò il suo nome, cioè ci diede, per questo un ricordo gradevole, un ricordo e un abbraccio che dura tuttora. Grazie. spessore dell'uomo, del compagno Dario. E Dario non è stato solo capace di confrontarsi con i ragazzi del 76, con quel movimento, ma anche dopo si è confrontato anche con nuove generazioni, in qualche maniera forse un po' più grandicelle, insomma anche io rappresento. Quindi si parla degli anni 90 e rapporto fino al 2005. È stato un rapporto bello, umano, profondamente politico e che ci ha aiutato a comprendere meglio la realtà. Dario l'abbiamo conosciuto nel 94, io lo dissi a Luca, ma lo voglio ripetere anche qui davanti a voi, che quando si chiese Dario come stai, mi disse no, stavo un pochino male, insomma. Lui tornava dalla manifestazione il 10 settembre 94, ci furono gli scontri a Milano, qualcuno se lo ricorderà, io me lo ricordo che è stato tagliato in cielo di metri, non sono neanche nato sportivo, quindi so queste cose mi ricordo, e disse no, stavo tanto bene, ma poi ho visto la lotta, mi sono ripreso, insomma, ecco, questo era Dario, no? Finché c'era discussione, anche fino alle 4 della mattina riuscivamo in qualche maniera a socializzare, insomma, tutte le questioni e approfondirle, perché poi non tutti di noi avevano gli stessi strumenti per vari motivi, insomma, no? E poco fa mi veniva in mente una sera si fece un'iniziativa con Dario, c'era anche Lia, e c'era un compagno che purtroppo è morto in un incidente stradale, e questo compagno lavorava nelle concerie di Santa Croce, e a Dario gli aveva raccontato che la gente si sveniva per gli acidi, sono posti brutti per lavorare, insomma, e questo compagno ci aveva ad alzarsi alle 5 la mattina per andare a lavorare, e lui disse ma te, e si emozionò quando pensò, ma te mi vieni a ascoltare me quando te domattina ci alzate alle 5, ma era proprio scosso e commosso, insomma, un po' per le... E questo era Dario, insomma, un uomo che si commuoveva ma nello stesso tempo determinato a difendere quello che pensava. Ci sarebbe da raccontarne tante, perché poi in questi anni c'è stato sempre anche questo rapporto bello, che lui quando scriveva anche i libri, diciamo, degli anni 90, insomma, i libri mal venduti, ecco, perché chi sarebbe venuto in mente quello che oggi è presente, invendibile e mal venduto, no? Ha coniato questo termine che io l'ho rivisto scritto da qualche parte, però forse se andiamo a leggere questo libro di qualche anno fa, insomma, è presente di oggi, all'epoca era già un pochino più, ci si pensava poco, e è anche vero che si confrontava, ci mandava i suoi scritti, ti chiamava, ti diceva ma che ne pensi, ma non tutti hanno il dono della scrittura, però poi si faceva, ci si trovava, si discuteva, perché ho pensato di far così, perché dire questo, insomma c'era un confronto continuativo in qualche maniera. E quando veniva Luca, insomma, compagni e compagni, tutti prendevano un giorno di ferie, si andava per il mulattiere, insomma, in mezzo alla natura, perché tutto questo era, ci spiegava una città dove tutte le famiglie vengono da un mondo contadino, però sostanzialmente oggi se ne sa poco, ci insegniamo che questo albero si chiama così, questa è una pianta che si chiama così, no? Cioè una formazione grande. E quindi non solo nelle assemblee, nelle iniziative, ma proprio anche in questi momenti diciamo sociali, d'amicizia, era sempre una discussione. Ecco, se non c'era la discussione, Dario si annoiava e diceva portatemi a letto. Insomma, questo era, penso che tutti, no, l'ho riscontrato. Cioè. riscontrare. Pensiamo che umilmente abbiamo dato un contributo anche ai Senza Patria, che è stato l'ultimo libro che scritto a più mano, Giorgio, insomma, non è, anche noi abbiamo fatto la nostra piccola parte, e ci ha dato una consapevolezza, insomma, l'orrore nucleare, tutto quello che consegue. E ci ha formato, ci ha aiutato a approfondire le questioni, quando poi anche nei movimenti siamo sempre presi dalle emergenze, no? Oggi c'è l'emergenza migranti, siamo sempre di corsa a rincorrere le cose, Invece con Dario c'era una visione molto larga. E penso che anche oggi, se a Lucca esiste una piccola biblioteca popolare all'interno di un quartiere, è anche grazie perché sei conosciuto Dario. Questo ha mantenuto anche un'unità fra di noi, un modo di vedere, no? Infatti la famiglia Falcino ci ha fatto anche una donazione valente, insomma, che metteremo prima possibile, poi si farà l'inaugurazione, insomma tutti sarete richiamati a ricordarci e a ricordare e anche a stare insieme e a socializzare. E l'ultima cosa che voglio dire è che nei Senza Patria sostanzialmente, no, Senza Patria, l'esistenza ieri e oggi è dopo vedremo il video, quindi un pezzetto, perché poi ci sono dei filmati, dall'altro anche integrali, chi vuole, insomma, le diamo volentieri. Questo video, a mio avviso, anche se è un po' lungo, ma insomma spiega bene l'uomo Dario, il pensiero Dario e la sua umanità, insomma, l'abbiamo visto piangere davanti a dei bambini a Sant'Anna di Stazzema, e lo vedete anche nel video, cioè commuoversi con dignità, perché insomma Sant'Anna di Stazzema, vi racconto questa, gli si fece una sorpresa, non è che si disse dai, si va a Sant'Anna di Stazzema. In questa macchina con cui era Dario, insomma si parlava di più del meno, quando lui si accorse e vide il cartello Sant'Anna di Stazzema, si ammutò lì, e finché non si arrivò al luogo non parlò con nessuno sostanzialmente. Quindi anche una, sicuramente ricordi, sicuramente quello che era avvenuto, e si relazionò con questa scolaresca che era lì con le maestre, e poi lo vedete, insomma, è stato un aspetto molto toccante. Quindi sì, un precursore dei tempi sostanzialmente, no? Perché poi cioè, riusciva, e questo tante volte ce lo diciamo anche noi, e tante volte ci diciamo anche fra noi, ma Dario ora che direbbe, no? Che contributo potrebbe dare su quello che sta avvenendo oggi e quello che aveva già prospettato, forse la realtà anche peggio di quella che si prospettava sostanzialmente. Quindi per noi è un ricordo vivo, è un ricordo anche attraverso questi piccoli eventi che magari non sono le iniziative o i seminari, ma insomma sono storie di vita e di profonda amicizia. Cioè un uomo già di una certa età che si confronta con dei ragazzi, però insomma qualche intelligenza sicuramente insomma, c'era, quindi la discussione brulicava. E poi questo amore per l'umanità, per l'uomo, ce lo diceva sempre, finché si crede nell'uomo bisogna sperare, non ci avranno, e se no il nichilismo farà la sua parte, insomma, questo ce lo penso che se tanti hanno continuato, poi qualcuno si è ritirato a vita privata, qualcuno ha cambiato vita, però se la maggior parte siamo tutti lì a dar vita alle cose, anche grazie a questo grosso contributo. Infatti molte volte accompagno più giovani. come diceva, beh, insomma, te sei stato un pochino più sfortunato perché non hai conosciuto Dario, insomma, quindi ci sentiamo in qualche maniera fortunati di averlo conosciuto, di averlo frequentato, averlo amato, perché lui ha amato noi, insomma, e con tutti voi che insomma siete parte anche della, sicuramente della sua vita. Alfonso Natella. Io. Certo, il quesito che, se così si dice, non lo so se si chiama quesito, quello che ponevi in partenza, no, nella tua, in seconda battuta, che prima ha parlato Vincenzo, cioè diceva come siamo sempre i soliti, no? E o diceva pure la maestra elementare, sei sempre il solito, cioè lo diceva a me, cioè forse lo diceva pure a te. E siamo sempre i soliti, che mi fa? È inevitabile che ci sono sempre dei soliti in ogni epoca. E insomma, se la persona Dario ci emoziona, non perché era un attore, era un spadaccino, era un giocoliere, cioè era un compagno, era un marxista, era uno studioso, era uno che ci diceva, io personalmente che l'ho conosciuto molto tardi e ciò quantitativamente meno relazioni degli altri compagni presenti. In realtà per me è stato un compagno importantissimo, perché io gli spiegavo, Dario, a me piace leggere tutto, a me piace leggere la storia, mi piace leggere qualsiasi cosa, perché poi come le melanzane, le faccio col pomodoro, con le patate, con le cipolle, cioè le faccio come cazzo mi pare, cioè io prendo uno spunto e poi se non ha spunti che non ha visto niente, non ha letto niente, oppure un film che è importante può essere per capire certe altre cose. E lui mi dette ragione, non rompetti di scatola, dice no, ti ha legge questo, non ci legge che cazzo vuoi. E mi consigliò di leggere un libro molto strano su Giambattista Vico, perché era un cilentano, un napoletano, parlo bene del sistema culturale meridionale, che era essenziale, cioè insomma mi spiegò che non era nato in un posto di merda nel sud, anzi era un posto favoloso, cioè praticamente ne parlano male perché è il posto migliore, cioè perché ci sta una storia culturale, filosofica, anche di lotte, cioè nel 600 mi spiegò, nel 600 che sono stati nati gli stati nazionali, ci sono nati, diciamo, i movimenti di lotta borghesi per gli stati nazionali, pure Napoli ha fatto la sua parte come un movimento nazionale, c'è stata la rivolta di Masaniello che è durata un paio di anni, insomma, non è che è stato Masaniello, l'hanno fatto fuori subito quelli della Curia, gli hanno messi gli altri camorristi contro, che poi gratta Masaniello erano camorristi secondo me, però diciamo erano camorristi di sinistra, perché c'è la sinistra in tutto, nella Curia, vabbè, non mi fate dire queste cose, non le volevo dire. Dunque è stato molto importante perché mi ha sviluppato quello che già c'avevo nella, cioè dice, leggere che cazzo qua basta, non diventa anti operaio, abbassa sia fuori l'operaio, si sente di sinistra, perché uno quando comincia a essere contro l'operaio diventa fascista. Questi sono i fatti che io mi ricordo di lui. Ma la cosa importante è che lui ha coniugato scientificamente il fatto di essere comunisti, il fatto di essere a fuori l'operaio e di essere anche a fuori l'ambiente, perché questa è la cosa complicata che neanche adesso si capisce, neanche adesso. Cioè lui, riportando una cosa di Marx, diceva che l'operaio, cioè cavolo di fondo, lui diceva volete difendere il panda, volete difendere la marmotta, e però l'operaio che vive in un posto così schifoso che neanche un orso, neanche un porco ci sopravviverebbe, perché anche l'asino e il cavallo, se voi facete fatica a 5 secoli li manda a fanculo, tira calcio, non lavora più. Quindi l'uomo, perché da fuori cala al figlio, perché da studiare un figlio, perché è malata la moglie, eccetera, eccetera, invece lavora in posti orribili nelle miniere, nei posti nocivi, come Asnia Vescicosi, che era una fonte di cancro, perché deve